Tupi tupi ginne, lumi purtuni. Tupi tupi ginne, lumi purtuni. Lu bellu monachello tiri tupi dell'ariula. Lu bellu monachello cavo la limosina. Lu bellu monachello tiri tupi dell'ariula. Lu bellu monachello cavo la limosina. Tirungo la limosina e vattini. Tirungo la limosina e vattini. Ca tengo una figlia bella, tiri tuppi dell'ariula. Ca tengo una figlia che a me si è ammalata. Ca tengo una figlia bella, tiri tuppi dell'ariula. Ca tengo una figlia che a me si è ammalata. Malata sao, la confessamo. Se sta malata sao, la confessamo. Te la confesso io, tiri tuppi dell'ariula. Te la confesso io, sta figliola. Te la confesso io, tiri tuppi dell'ariula. Te la confesso io, sta figliola. Chiuriti che ste porte e sti barconi. Chiuriti che ste porte e sti barconi. Che comincia da là, tiri tuppi dell'ariula. Che comincia da là, confessione. Che comincia da là, tiri tuppi dell'ariula. Che comincia da là, confessione. Le scale, cacchiagnia, la figlia sullo letto, carridia. Me l'ha guarita là, tiri tuppi dell'ariula. Me l'ha guarita la mia malattia. Me l'ha guarita là, tiri tuppi dell'ariula. Me l'ha guarita la mia malattia. Aprite che ste porte e sti barconi. Aprite che ste porte e sti barconi. Che è finita là, tiri tuppi dell'ariula. È finita la confessione, che è finita la tiri tuppi dell'ariula, che è finita la confessione. Mamma chisto non è l'umonachello, mamma chisto non è l'umonachello. Chi sta ciccuzzo mio, tiri tuppi dell'ariula. Chi sta ciccuzzo mio, che mi ama. Chi sta ciccuzzo mio, tiri tuppi dell'ariula. Chi sta ciccuzzo mio, che mi ama. Potesse maledetta figlia mia, potesse maledetta figlia mia. Che